davanti al mare, fatta apposta per ricordare il tuo viso. Sei partita a metà settembre, mi hai lasciato quello che non serve, una notte sola insieme mai più. È questo che mi fa male, sai, tu ritorni da chi non è scordato mai, in fondo c'era un patto tra di noi. Solo lui, è lui l'unico uomo che ho. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lula. Oh, oh, oh, Lula. Oh, Lula. Tu mi prendi. Degli amici intorno a me, è questo, lo so che mi fa male, sai, tu ritorni da chi non ti ha scordato mai, è lui l'unico.